Perez, come va? Pronto? Ci siamo? Pronto, eccoci. Dovrebbe esserci anche un altro microfono, eh? Non lo vedo al momento. Dovresti abbassargli la cuffia perché sta soffrendo come un cane. Ah! Eccolo, grazie. Si sono fregati l'altro microfono, dovrete stare vicini, però attenzione, non fate come il vostro solito, sennò vi cambio posto di banco. No. Tanto è suo. Sì. Francesco Alò, buonasera. Buonasera. Buonasera. Critico cinematografico Francesco Alò e Gabriele Vasquez. Che però... Grazie. Amico e conoscente. Esatto, un caro amico. Allora, parliamo di cellulite e celluloide. Oh, questa cosa è molto bella, Donatella. Questa fa anche rima. Questa canzone è così bella che ho deciso di farla diventare la ninna nanna di mia figlia, che nascerà entro il prossimo mese. Che ne dici? Dico che quel brano degli American Dollar è meraviglioso. E non so se tu hai visto il video, ma è ancora più bello. È una cosa, un video d'amore straordinario. Tu l'hai visto? No, ahimè no. Dovresti vederlo perché dovresti commentarlo. Io ho visto un'altra cosa questa settimana, però. Cosa hai visto? Il gregge. No, non ci credo. Non ci crederò mai. No. Veramente l'hai visto? Sì. Incredibile. Ma veramente scherzi? No, non scherzo. L'ho trovato in turco, però. Con i sottotitoli? No. E io l'ho visto in turco con i sottotitoli. E io l'ho visto in turco senza sottotitoli. Ma sono sicuro che si capisce lo stesso. Suru in originale. 1979, beh. Ilmaz Güney. Io quando in gioventù quel film mi ha colpito talmente tanto che sono diventato stupido. Noi critici cinematografici adoriamo il cinema perché il cinema ha colpito tutti, no? Sì. Da Silvio a suo modo, dai filosofi, sì, dagli spacciatori di droga, i DJ bravissimi. Sì. Ognuno di noi ha un film nel cuore o in un'altra parte del corpo. Sì. Forse il gregge dov'era per te? Il gregge deambula, perché essendo un gregge, no? Allora, è una cosa che ti ha segnato. Fanno la transumanza. Dov'eri? Non lo so, nel 79 non me lo ricordo, guarda. Nego tutto. Guarda, dal 76, 77 all'84 io non mi ricordo più niente. Non ricordo nulla. Tu mi chiedi che ne so, conoscevi quello? Io. Chi? Mannaggia. Capito? Hai visto quel film? No, mi ricordo solo il gregge. Cioè, di 7 anni solo il gregge. Il gregge di Güney, che effettivamente è un filmone. È bellissimo. No, sicuro. Io ho intuito qualcosa. È una storia struggente, pazzesca, di lotte, faide familiari. Bellissimo, molto passo. Comunque ho trovato il gregge di Güney. Campo messo lungo, lì. In campo, hai visto la telecamera fissa, bellissimo. Piani di sequenza stupendi. C'è subito uno iniziale, bellissimo, di 5-6 minuti a camera fissa su un campo dove c'è un trattore che passa in primo piano e sta arando la terra. E sullo sfondo vediamo i protagonisti a cavallo. E quindi abbiamo la modernità in primo piano e in campo lunghissimo l'antichità, che però resiste, perché poi saranno loro i protagonisti. Ma Güney, già con fare con lui, non l'ha visto, che ne sa. Immagino. Ogni inquadratura è una scelta ideologica e la Güney già fa capire da che parte sta. dal carcere, però esatto. Finché va diretto dal carcere. Vabbè, mo io lo passo pure a lui, però questo è il colpo di scena, me son messo. Bellissimo. Colpo di idea. Bellissimo. Sei un grande, solamente tu. Vabbè. Solamente tu. No, peraltro Güney è veramente un grande regista, Gabriele, colpa nostra. Sì, no, ma io sapevo che non ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes. Io non l'ho visto, devo recuperare pure Ior. Ero documentatissimo, tutto tranne i film, sapevo. Dovresti avvicinare il microfono a Vasquez, anche se non è che... Vabbè, ormai tanto. Abbia tanto. Infatti, passaggio di consenso. No, proprio la stica. Per quel che serve. L'asta proprio, vicino all'asta. Vicino all'asta. Sì. Eccolo qua. Parliamo di cinema, prego. Allora, film con la colonna sonora di Sigur Rós, prego. No, dai. No, perché volevo fare l'aggancio perché hai parlato di cavallo. Cheval! Esatto. Perché c'è un film questa settimana che ha colpito Francesco in una maniera. E qui però interviene poi chi è avanti. Che io un film che io già avevo visto e già avevo segnalato da questi microfoni a gennaio dal Future Film Festival di Bologna, da cui c'eravamo collegati, vi avevo detto. È andato anche a quel festival. Oltre a Cannes, oltre a Cannes, a Bologna, a Prince. Però avevo visto questo film su cui adesso Francesco è arrivato. Sono contento che poi alla fine ci è arrivato anche lui. E che l'ha colpito moltissimo. Vuoi dire tu? No, vai avanti, vai avanti. Va bene. Pensa al greggio di Gunei comunque. Allora, si chiama Panico al villaggio. A parte gli scherzi, è un film che è piaciuto molto sia a me che a lui. È un cartone animato in stop motion, cioè con i pupazzi di plastilina. Il bello è che è un film veramente artigianale, cioè è fatto con in maniera volutamente amatoriale, volutamente che si vede il trucco, addirittura in lingua originale. E lo stesso, sono gli stessi due autori che fanno le voci di tutti, esatto, usando questi orrendi falsetti che però sono divertentissimi per i personaggi con la voce acuta o per i personaggi femmina. È un film come nei migliori casi che si rivolge donne, vabbè, donne. No, femmina, perché non sono donne, che sono cavalli anche, capito? Ah, è un film fatto con i pupazzetti, un è come se una giumenta, una giumenta, una bella cavallona. È un film i cui protagonisti sono i pupazzetti, cioè ce ne sono alcuni che sono i soldatini, quelli con la base rigida, e altri per esempio sono dei cavallini. E c'è una particolare potrei scrivere con più ardore, io lo vedo convinto, no, perché sono sicuro che tu stai per arrivare con l'ardore. Socchiude gli occhi ed è un hai fatto perdere il filo del discorso e niente, ho dimenticato completamente la cosa. Allora, il bello è che è un film istintivo, forte, che va molto di pancia e poco di testa, dove succedono cose assurde, senza senso, ma che è divertentissimo. Ma è un cartone animato? Sì, in stop motion. Che si muovono. Allora, dal Belgio arriva l'entusiasmo. Dal Belgio con furore, dal Belgio col nonsense meraviglioso, Panico al villaggio sembra un film fatto da un bambino pieno di fantasia, perché ci sono tutti sti pupazzetti, molto naif. È fatto con queste vocine in falsetto terribili, e c'è Cavallo che è il protagonista, c'è un cavallo chiamato Cavallo, te lo ricordi l'uomo chiamato Cavallo? Come no? Parigiano in quel periodo? No, ma quello non lo ricordo. Allora, te lo ricordi Richard Harris? Qua c'è un cavallo chiamato Cavallo, invece Prince, che è una cosa molto importante, che è il protagonista. La cosa bella è che Cavallo è il leader, e Indiana e Cowboy sono due cretini che vivono in casa con lui. Cavallo legge il giornale la mattina, sta lì così, autoritario e carismatico, mentre Indiana e Cowboy sono due deficienti, irresponsabili e infantili. E quindi è un ribaltamento dei ruoli, ed è tutto così. C'è un po' di realtà, c'è la legge, ma è strana, c'è il contadino e la contadina, ma i ruoli sono ribaltati. C'è un cavallo che è un capo, e guida la macchina e pensa all'economia della famiglia, mentre Indiana e Cowboy sono due cretini. Si va sott'acqua ma si respira, ci sono dei mostriciattoli della laguna come nel film di Jack Arnold, delle mezze iguane che rubano le mura delle case, si possono ordinare 50... A te piace Jack Arnold? Moltissimo. Ma veramente? Sì. Sai che andavo a vedermi tutti i film al planetario? Di Jack Arnold. Vabbè, mo escono fuori delle cose. Ma il vaso di Pandora, io e quest'uomo. Jack Arnold è un grandissimo. Redazione BX, Distruzione Uomo, quello che rimpiccioliva sempre. Ma bellissimo. Bellissimo. Beh, allora, il mostro finale della Laguna Nera. Allora, Prince, se vai a vedere, io dico, sarebbe bellissimo, diciamo, Panico al villaggio alla spiaggetta con Faster che fa il DJ, perché è proprio un film radio rock totalmente, completamente nuovo, è qualcosa di completamente diverso, mai visto. E ci sono questi mostri. Sì. È un capolavoro assoluto. Ma dai, ma siamo impazziti, io sono impazzito. Ma c'è tutto, c'è anche la morte. Come si chiama questo film? Panico al villaggio. Panico al villaggio. Cavallo, Indiana e Cowboy che partono per questa avventura incredibile, arrivano al centro della Terra, al Polo Nord, dentro, in mezzo all'oceano. Motivo? Ovunque. Ma il motivo? Il motivo è che geniale. Indiana e Cowboy hanno regalato un barbecue a Cavallo, però hanno ordinato per sbaglio 50 milioni di mattoni, che poi innescano una serie di guai catastrofici. E c'è Cowboy che non l'abbiamo visto in origine, l'ho visto in originale, e fa sempre Cheval, perché c'è Cavallo che si chiama Cavallo. Mi ha fatto tanto ridere. Sembra da due matti. Sì, proprio... state recensendo questo film, però evidentemente vi ha colpito. È il film della settimana. Tutta Radio Rock, tutti gli ascoltatori devono andare a vedere Panico al villaggio. Andremo a vedere sto Panico due al belgi, Stefano Bier e Vincent Patard. Bravissimi. Quindi poliziotti fuori, no, niente, pacottiglia. Questo è proprio... In realtà poi c'è un altro di film molto bello, diverso, ma bello. Avvicinati sempre al microfono. Ce n'è un altro di film bello ma diverso che esce questa settimana. Non toccarlo perché è pieno di batteri, con la bocca lascia vedere. No, questo non mi azzarderei mai a toccarlo con la bocca. Vedi, ho il mio. E dunque, Diciamo Fanny al villaggio pure io lo appoggiai. È un film, sono i giochi di quando eravamo bambini e creavamo il mondo, vedevamo il mondo, no? Eravamo un po' disorientati. Sì, stavamo poi alcuni sono rimasti disorientati. Ecco, poi invece il mondo l'abbiamo capito un po' meglio. Ma ti ricordi quando giocavamo, lo creavamo, eravamo Dio? Sì, facevamo delle cose pazzesche. Ed è questo film è, secondo me, quando qua. Noi eravamo bimbi, cioè i bambini hanno dentro di loro della droga che si sprigiona fino a una tot di età, perché la creatività che uno aveva da bambino non ce l'ha più. O meglio, si muta, diciamo che muta e diventa un'altra cosa. Peggioriamo sì, diventiamo degli uomini. Sì, che è la cosa tristissima. Tristissima. No, su questo sono altamente discordo. Che io cerco di non diventarci mai. Altamente discordo. Lo senti il tedesco di me? Lo senti? Non sono d'accordo. Io cerco di non diventarci mai uomo, però insomma, cerco di essere sempre ragazzino. Sì. Beh, prego, andiamo avanti con il film. Andiamo avanti con il film. Non me lo usare, che poi si perde il film. Vai. Abbiamo 20 minuti. No, invece abbiamo visto questa volta curiosamente insieme. Eravamo seduti vicino. Un altro capolavoro abbiamo visto. Un film terribile che si chiama Alice. E abbiamo sofferto in comune per questa visione. Allora, Alice, innanzitutto, è un film italiano. Che si chiama proprio Alice e basta, si chiama così. Che chiaramente non manca di fare l'ovvio e terribile richiamo a un certo punto al Paese delle Meraviglie, ma che in realtà racconta di una ragazza, la classica bruttina che in realtà è carina, che sta in un posto di lavoro che soffoca le sue aspirazioni poetiche. Come lui. E che, che è un po' la storia della mia vita. E che in realtà cerca una dimensione più di vita più adatta a lei. Allora, la cosa terribile di questo film è che dopo il quinto minuto dall'inizio, comincia ad arrancare e non si capisce dove vada a parare. Sviluppa mille linee di trama senza chiuderle. Non ha mai un cuore. Posso fare una domanda? Cioè, no, non ci capisco di cinema, ma quando uno dice voglio fare un film, scriverà la trama, che ne so, la sceneggiatura, e non si accorge che arranca. Secondo me non se ne accorge manco quando ha finito. Ma quello che a me più mi stupisce è che quando tu scrivi una sceneggiatura, non è che scrivi la sceneggiatura e fai un film, poi c'è qualcuno che la rivede, qualcuno che la legge, un produttore che dice sì oppure no. Insomma, tantissime persone. Che magari si chiama Medusa. Magari si chiama Medusa, esatto. È potente. Insomma, come mai? E tutti quanti dicono sì. Tutti quanti dicono sì, buona questa cosa. Buona. E poi diventa. Diventano questi film francamente incomprensibili, come se, addirittura c'è, cioè, alla fine, senza rovinare il finale per quei folli che vorranno tentare la visione, però addirittura verso la fine, anzi proprio alla fine, c'è un momento di arroganza allucinante di metacinema. Cioè la macchina da presa va indietro e si vede il microfonista, si vede il regista, capito? Cioè il cinema nel cinema. Una cosa totalmente folle, neanche fosse la montagna sacra. Ma veramente sono rimasto esterefatto. Già ero distrutto. Era di Herzog, la montagna sacra. No, Jodorowsky. Ah, Jodorowsky, è vero, vero. Che viene da che paese del Sud America? Aspetta, non voglio sbagliare. Aspetta. Peru. È cileno lui? Grande. Bravo. Il mio ragazzo peruviano, crescendo moltissimo. Vabbè, altri film, insomma, sto film con la colonna sonora di Sigur Rós. L'ha detto, l'ha visto lui, non l'ho visto, vai. Come non l'hai visto? Ragazzi miei, si intitola Ragazzi miei. Perché lui, capito, lui mi chiude nell'ufficio, come Moggi con l'arbitro, mi chiude nell'ufficio e io non riesco ad andare ai film. Anzi, no, gli indico proprio, guarda, il film è là e poi io vado dall'altra parte. Gira i cartelli, gira il cartello film. L'altro nel gregge l'ho intercettato io, questo qua sta a dormire. Tu ci hai sfidato e questo. Allora, questo film si chiama? Ragazzi miei. Ragazzi miei, sì. E parliamo di Ragazzi miei. Ok, allora, dunque, Scott X, che è un signore che ha diretto Shine, il film sul musicista. Sì. E che fece vincere l'Oscar a Jeffrey Rush. Allora, è un come film... si chiamava il musicista? Elfgott, bravo, David Elfgott. Ti confermi sempre tu, bravo. Basta queste slinguazzate. Sì, veramente. E comunque è un film ambientato in Australia, perché Scott è di quelle parti lì. È un ragazzo con i capelli lunghi, con i boccoloni, un regista interessante. Un po' palloso, La neve cade sui cedri. Fammi indovinare, sui cuore cedri. Di Atlantide. Quello non l'ho visto. Ecco. Allora, comunque, Scott X, melodramma maschile, un padre che deve far pace con se stesso, con il bambino che è dentro, vedi, torniamo a Panico al villaggio, perché deve accudire il bambino piccolo. È morta improvvisamente, muore improvvisamente la moglie. Ci ricorda qualcosa? È La nostra vita di Daniele Luchetti, simile. Un padre rimane solo con un bambino piccolo, poi ne verrà anche fuori un altro, Come fa? Che era anche quel film, come si chiamava quel film con John Cusack di qualche anno fa, che muore la moglie muore in guerra. Ah, bellissimo, la moglie è soldatessa dell'Iraq. Esatto, si chiamava il film, ti ricordi? Adesso controllo. Era un altro film con questo tema della morte della moglie. Stringiamo Clive Owen, uomo molto virile, molto sexy, piace alle nostre compagne donne e alle femmine, come direbbe Vasquez. Clive Owen, ok, al centro lì, funziona? Non funziona. Come non padre alla ricerca dei figli, non funziona. Niente. Però ci sono i Sigur Rós in colonna sonora continuamente, bellissimi momenti in cui ci sono i Sigur Rós. Aneddoto, Scott Hicks mette i Sigur Rós senza pensare, come colonna sonora di lavorazione, poi alla fine va al montaggio finale, il famoso momento finale in cui uno e dice: cavolo, come ci stanno bene i Sigur Rós, andiamo subito. Prende la nave, va in Islanda, va dai Sigur Rós e gli dice: datemi i diritti, ragazzi. Questa è una storia bellissima. Questo regista che parte, va. Ma veramente? Allora, e loro glieli danno. E loro glieli danno perché gli dicono: ma guarda che simpatico è quest'australiano, questo Scott Hicks. E quindi, ragazzi miei, non è un granché. Però c'ha queste canzoni di Sigur Rós che sono molto belle quando arrivano, lunghe. Quindi se uno non, cioè, io non, non vado al cinema, si sente il CD di Sigur Rós e arriva esatto, e pensa a Scott Hicks che va in Islanda. Perfetto. Bene, ma andiamo avanti. Grace is Gone. Era il film di John Cena. Poliziotti fuori, via. Pure questo l'ha visto solo lui, vai. Vabbè, ma tu che hai fatto, scusa? Ti ho detto, questo mi tarpa. Si droga. Si dimentico di andare alle proiezioni. Si droga sul luogo di lavoro che è nostro, poi. È terribile. Abbiamo trovato molte cose, vabbè. Comunque. Allora, vabbè, questo è brutto, questo è il regista di Clerks. Però allora io questo qui esatto, io lo aspettavo questo film, perché è di Kevin Smith, regista di Clerks, regista che, il cui ultimo film Zack e Mindy Make a Porno non era neanche uscito in Italia, che invece pare, io non l'ho visto, pareva carino. Zack e Miri, bravo. Che pareva carino. Senso. Invece questo pure? Proprio così. Nel mediocre. Senso che sai, la commedia poliziesca, vabbè, l'abbiamo vista. In fondo già i polizieschi degli anni Ottanta erano molto comici, volontariamente e involontariamente. Quindi ci sono degli inglesi bravissimi che fanno le parodie negli ultimi anni. Hanno fatto L'alba dei morti dementi, hanno fatto Hot Fuzz, che era una parodia di film polizieschi. Allora, questa che cos'è? Una parodia di un film poliziesco? Sì, c'è Bruce Willis con il gemello, si dice così, il poliziotto afroamericano, Tracy Morgan, un comico insopportabile. Insopportabile. Che fanno un po' gli scemoni, vanno in giro, però si spara e si muore, quindi non è proprio un film comico, è una commedia poliziesca. Gli inseguimenti sono diretti malissimo, perché Kevin Smith non è un regista dinamico, che ama il dinamismo. Ci sono le solite parolacce, le battute sulle feci, sullo sperma, l'amicizia virile anche qua. Io, Prince, è un momento di film, non so se Gabriele sei d'accordo, pieni di maschi che si vogliono bene, di gruppi di maschi. È un momento che al cinema è pieno di questa roba qua. A-Team sarà la nuova evoluzione. Ragazzi miei, poliziotti fuori. Io non faccio altro che vedere film con gruppi di uomini che devono trovare un equilibrio tra loro. Questo è sconvolgente. E gruppi di donne, è uscito pure Sex and the City. Sì, però meno gruppi di donne. Allora, perché ci sono meno donne al cinema, vedo. In Italia, paradossalmente, perché in America invece il pubblico femminile è fortissimo. Detto ciò, chi ama Clerks, chi ama il cinema di Kevin Smith, è affezionato a Kevin Smith come siamo affezionati noi, lo andrà probabilmente a vedere. Non aspettatevi un granché. Bruce Willis è divertente? Non particolarmente, è un po' stanco, mentre invece l'afroamericano è stancante. Ma De Niro che fine ha fatto, a proposito di grandi attori? Vabbè, De Niro sta facendo film, non fa più un film fatto bene da veramente tanto. È la vecchia polemica. Dal Padrino proprio. Ha vinto l'Oscar. Allora, questa è la polemica De Niro Pacino. Ma sai che De Niro si dicono delle cose? Le sai le cose che si dicono su De Niro? No. Che deve pagare i buffi, c'ha un sacco di ex mogli, c'ha un sacco di debiti. Ah, sì, e quindi accetta la qualsiasi. Se tu lo chiami, se io e lui lo chiamiamo domani, fa bene a fare il film. Diciamo, ti diamo $1 milione. E qua il discorso di Alice, no? Lui manco chiede di leggere la sceneggiatura. Ah, ecco. Lui viene subito. Viene subito. Beh, innanzitutto deve. Adesso sto guardando su internet. Starà nel Die Hard 5-6 dovrà uscire, no? Macete. No, starà in Macete, che è il nuovo film di Robert Rodriguez. E soprattutto torna con Martin Scorsese. Perché Scorsese sta facendo Sinatra, la biografia di Sinatra, e lui farà Dean Martin. Ma veramente? Probabilmente chi lo farà Sinatra? Però non è confermato, Chi lo farà Sinatra? Al Pacino. non confermato anche lui, ma eh. No, ma non lo faranno mai. Ma non credo. No, perché hanno fatto un film da poco insieme che era La sfida senza regole, che era terribile. Madonna, che schifo. Terribile, non gli andava a nessuno dei due per nulla proprio. Brutto, brutto film, sì. E sta facendo anche un altro episodio dei film della serie con Ben Stiller, di Ti presento i miei e Ti presento i tuoi, come si chiama il secondo, no? Fockers, Meet the Fockers. Meet the Fockers, e poi l'altro come si chiamava? E questo adesso c'hanno, no, il primo è Ti presento i miei, il secondo è Mi presenti i tuoi. Esatto, e adesso sta girando il terzo, che il titolo italiano ancora non c'è, però che sta in americano sarà Little Fockers. Perché i Fockers hanno fatto figli. Suppongo di sì, dal titolo, penso di sì. E sarà Marcello Mastroianni, forse tu ti offenderai, Prince, perché sarà Marcello Mastroianni nel remake americano di Stanno tutti bene di Tornatore, che io ho visto, non chiedetemi come, in modo illegale ovviamente, ed è pessimo anche in quel film. Addirittura. Sì. E Mastroianni invece era molto bravo in quel film di Tornatore. Hai capito? Invece, mentre lui andava a vedere tutti questi film che io non ho visto, io andavo a vedere un altro, sono riuscito a scappare, però erano già iniziati, quindi sono andato in un altro. Ma quale? Allora, ho visto un film che è molto bello, a me è piaciuto moltissimo, però ha un titolo italiano bruttissimo. Il titolo italiano è Affetti e dispetti, sono quelle cose, quelle titolazioni che solo in questo paese riusciamo ad inventare, e mentre invece il titolo originale è La Nana, che non fa riferimento a una donna molto bassa, ma alla donna di servizio, la Tata. È un film cileno questo, quindi La Nana in cileno vuol dire la Tata, ed è un film che racconta sostanzialmente di questa donna, che è la donna di servizio in una famiglia, quel tipo di donna di servizio che dormono in casa, che quindi rimangono anni e anni e anni in una famiglia. Lei in particolare sono 20 anni che sta insieme a questi, da quando lei ne aveva 20 adesso ne ha circa 40, e quindi ha anche seguito tutta la nascita e la crescita dei figli di questa famiglia, che sono 5, e si intuisce subito all'inizio, ha sviluppato una serie, come spesso capita poi anche nella realtà, ha sviluppato una serie di rapporti sia con i genitori della famiglia, cioè i suoi datori di lavoro, che con i figli, e questi rapporti sono strani e particolari, perché sono molto intimi, sono perché comunque persone che da 20 anni vivono insieme, però sono anche rapporti lavorativi, quindi hanno una certa distanza, e c'è anche una certa differenza, che spesso viene sottolineata in maniera poco carina, di classe, cioè una mangia in cucina, gli altri mangiano in salotto, insomma tutta una serie di cose molto strane, e soprattutto viene molto sottolineato come la sua vita sia solo quello, gli altri hanno comunque una vita al di fuori di quella casa, lei invece è sempre solo in quella casa. A un certo punto, elemento che scatena il film, che fa partire la trama, è che lei si sente poco bene, ha un malore, ha un mancamento, e quindi insomma la famiglia decide di affiancarle un'altra, prendere un'altra donna di servizio per affiancarla. Lei questa cosa la vive malissimo, la vive in maniera malata, invasione del proprio spazio, e comincia a rendere la vita difficile a tutte queste che si susseguono. C'è la prima remissiva, che lei la chiude fuori casa, poi siccome sono preoccupati chiamano una specie di lottatrice di wrestling, una energica immensa, ma pure questa lei riesce a farla fuori con una serie di, con i, diciamo, i dispetti del titolo, con una serie di stratagemmi anche abbastanza ironici, abbastanza divertenti, e fino a che invece poi non arriverà una molto più sofisticata, che insomma stabilisce un rapporto più complesso, e senza dire come va avanti diventa molto interessante la cosa. Domanda: Tron, che uscirà il 5 gennaio del 2011, io lì l'attendo. Ma sarà 3D? Tanto manca? Sì. Sarà 3D? Sì. Yes. Mentre Harry Potter no. Harry Potter no. Neanche Dylan Dog. Però è strana la questione, perché Harry Potter non sarà ufficialmente 3D, però già i precedenti Potter erano andati in alcuni cinema in versioni 3D. Cioè, prima che scoppiasse di nuovo questo ritorno del 3D, cioè 3 anni fa, alcuni film andavano nel circuito delle sale IMAX in 3D, in versioni che avevano magari alcune scene solamente fatte in 3D per i soli cinema del circuito IMAX. È capitato col Cavaliere Oscuro, con Superman Returns e con gli Harry Potter. Quindi suppongo che anche questo avrà una sua versione che per quel circuito là, ma non sarà ufficialmente un'uscita in 3D che in qualsiasi cinema si può vedere con gli occhiali. Sei andato a vedere la partita di calcio in 3D? Sì. Come? Allora, bravo che te lo sei ricordato, io già me l'ero dimenticato. Invece allora, ricordo tutto, col bravo. Cavolo. Non è più l'84. Allora, esatto. Sono andato a vedere... Peggio. Sono andato a vedere Brasile... Chi era il Brasile? Ma chi era? Ma tu sei drogato. Ma com'è possibile? Sì, non mi ricordo più con chi ha giocato. Io non ci capisco. Brasile Costa d'Avorio. Io non ci capisco niente di calcio, ma tu sei un... Cioè io non mi ricordavo più. Non le vedo proprio le partite. Tutte queste partite in questi giorni. La allora. Futura classe dirigente. Esatto, del domani. Brasile Costa d'Avorio sono andato a vedere. Eccomi. Che tra l'altro è stata una partita anche bella. Allora, innanzitutto, la cosa Brasile. Più impressionante, la cosa più salta all'occhio nel vedere una partita di calcio in 3D al cinema. In diretta. In diretta, bravo. Non è tanto il 3D, che comunque ha il suo effetto e tutto quanto, quanto le riprese, perché è ripreso diversamente. Cioè, c'è la classica ripresa dall'alto, quella che vediamo in qualsiasi telecronaca, qualsiasi trasmissione. Dove si vede tutto il campo? No, una porzione come al solito, una porzione del campo. Ma poi molto molto spesso, durante le azioni, non nei replay, staccano e fanno l'inquadratura quella piatta, quella altezza giocatore. Quindi tu, durante un'azione, magari la vedi partire da centrocampo con l'inquadratura classica. Poi, mentre stanno facendo il fraseggio, mentre la palla va avanti, stacca e vedi i giocatori in mezzo al campo. Cioè, quindi un dettaglio, non vedi. Zoom. Sì, diciamo che vedi una porzione con 4-5 giocatori a quel livello di ravvicinato. Quindi non vedi la porta, non capisci bene che sta succedendo. E questo, diciamo, nuoce un po' alla comprensibilità della partita, ma è molto più bello da vedere. Quindi, sicuramente ai malati del calcio dà fastidio, sicuro. Perché non, anche, cioè, a me, quelli che, anche a me che non sono malato. I tecnici, quelli gioca 3. Esatto, 4, esatto. 3. Anche a me che. Non sono molto malato di calcio, assolutamente no. Però un pochino all'inizio mi diceva ma io non sto capendo più nulla. Però poi in effetti, specie col Brasile, vedi meglio subito in diretta. Io per esempio sono stato fortunato a un certo punto, proprio durante una di queste inquadrature, è arrivato il gol. Quello dribbling di Kakà, passaggio bellissimo. Il primo gol. Esatto. Ed è stato un bellissimo momento, perché comunque non è come sembra il replay, però è a velocità normale ed è in diretta, quindi hai la sorpresa di non sapere come va a finire ma l'azione. Com'è il 3D? Il 3D funziona benissimo, è veramente 3D, cioè è veramente non c'è quella stupidaggine che dicono ti senti dentro la partita, questa è una fregnaccia che non è vero assolutamente, però è un gran bell'effetto che specie portato alla lunga ti coinvolge molto, insomma, che non è non senti più di stare a vedere come una partita in casa, ma in effetti ti senti un pochino più al cinema proprio, perché c'è un artificio in più, c'è una cosa con gli occhialini, naturalmente. Ovviamente il 3D senza occhialini al cinema non esiste e non esisterà per tanti anni. E un'altra cosa invece, un'altra cosa inaspettata della partita al cinema è che è una diversa fruizione del film. Cioè te ne accorgi già quando sei in macchina che stai andando. Cioè una diversa fruizione della partita. Sì, della partita, scusami, della sala, sì, scusami. Te ne accorgi quando sei in macchina che stai andando. Perché pensi, mi devo sbrigare. Poi pensi, vabbè, ma pure che entro a 5 minuti della partita, ma chi se ne frega. E vabbè, in effetti, a te che non piace il calcio, no, scusami. Vabbè, ma insomma, non è come il film, no? Che se entri 5 minuti, vabbè, ma a te, te che piace il film, sì. Ma che discorsi sono? No, non hai capito. Quello che sto dicendo io è che non è fondamentale quel tipo di concentrazione e di rigore che c'è nel film. In sala si parla. Beh, però c'è il rigore anche in sala nel calcio, ci può essere. No, perché invece non capita. Dovevi dire sullo schermo, allora, non in sala. Si parla molto in sala, perché giustamente, ecco, la telecronaca è molto forte. Ma intorno a te com'è? L'atmosfera intorno a te? Ma c'era un moderato entusiasmo, era una bella partita, poi c'è il Brasile. C'è stata un po' la dinamica Rocky 4, cioè che tutti quanti partono tifando il Brasile, che è il più forte. Poi a un certo punto, in effetti, la Costa d'Avorio si dava veramente da fare. E a un certo punto eravamo finiti tutti a tifare Costa d'Avorio, perché aveva dimostrato più impegno, più... Ma c'era molto pubblico? Medio, era una sala di media grandezza del Warner moderno ed era mezza piena. Quindi non è che fosse, non c'era da fare a cazzotti, però insomma la gente c'era. E anche una partita del girone eliminatorio, voglio dire, magari a quelle più avanti sono anche più interessanti. La cosa fondamentale è che a parte che puoi stare col cellulare acceso, che è un'altra cosa che uno mi ero dimenticato al cinema. Un'altra cosa interessante da dire è che se la partita è noiosa, è la fine. Se la partita è noiosa, è proprio la fine. Ti senti bloccato là, non sai che fare, non sai a casa. Vabbè, ma a te che non piace il calcio. No, le partite noiose esistono. Ma se vabbè, è noiosa, se c'è il calcio, no. No, se c'è una partita di quelle che tu dici, oh mio Dio, ma arriviamo anche gente normale, una persona normale che si annoia ma una partita in casa. Noi andiamo al cinema, a volte vediamo dei film, li sì, dobbiamo vedere. Esatto, e mi annoio anch'io al cinema, però non è come annoiarsi al cinema, io è molto peggio. Ti Alice, te stavi a sparare. Sì, ma è molto peggio la partita noiosa. Ci sono stati dei momenti di quella partita che era anche una bella partita, ci sono stati dei momenti più spenti che io mi sono proprio detto, oh mio Dio, se dovesse essere tutta così è insostenibile. Domande telegrafiche perché dobbiamo chiudere. Intanto ti saluta l'ascoltatore solito tuo, Vasquez. Il cinema francese non esiste più, c'è solo quello made in USA. Anzi, è fortissimo, sono fortissimi. Beh, Panico al villaggio è belga, belga, francese e lussemburghese. Ma no, poi meno di un anno fa è uscito da noi Il Profeta, uno dei film più belli degli ultimi anni. Bellissimo, quello francese. È bellissimo. Quindi, film straordinario, no? Quei maledetti francesi fanno film straordinari, c'è poco da dire. Non è vero, io stasera al cinema a vedere Sex and the City con due mie amiche, quindi le donne al cinema vanno. Meno male. Grazie a tutti e a tutti. Volevi aggiungere dell'altro, ma devi essere proprio telegrafico, perché ho un amico che mi aspetta a Piramide. Allora, giovedì sera 23:30 Rete 4, La sottile linea rossa, l'unica cosa valevole da vedere in televisione questa settimana. A me non mi è mai piaciuto quel film. Bellissimo. Ti piace? Bellissimo. Bello. Bello. Dai. Giovedì 23:30 Rete 4. A me piace quel tipo Hamburger Hill, sai che... Collina 36, com'era? Esatto. Collina 365. Ma 3 può essere. Racconto un aneddoto? Sì. Su Sottile linea rossa? Sì. Fin terribile, perché Terence Malick aveva preso un sacco di attoroni che volevano tutti lavorare con lui, non sapeva che fargli fare. Ed erano tutti abbastanza convinti di essere il protagonista del film. Questo prende tutti, da Travolta a Cusack a Ben. E un giovane Adrien Brody. Adrien Brody finisce le riprese della Sottile linea rossa, va sul set di Summer of Sam di Spike Lee e se la comincia a tirare. E c'è Spike Lee, me l'ha raccontata sta cosa, è terribile. E Spike Lee fa: vabbè, ma insomma, com'è andata con Malick? Com'è andata? Sono il protagonista, ne vogliamo parlare? Sono il protagonista dell'ultimo film di Terence Malick, uno dei più grandi registi del Novecento. Ma poi il primo film dopo 30 anni di silenzio. Spike Lee fa: porca vacca, Adrien, ma veramente? Certo, sono il protagonista, faccio il suo questo. Invita tutti Adrien Brody alla prima del film, durante le riprese di Summer of Sam, invita tutta la truppa per fare il figo e Terence Malick l'ha tagliato a 1 minuto e mezzo e Spike Lee lo prende per il culo. Cioè non compare praticamente Adrien Brody nel film, non c'è quasi mai. C'è solo 1 minuto e mezzo. Sì, 1 minuto e mezzo, si accendono le luci e Spike Lee distrugge psicologicamente Adrien Brody. Grazie a tutti e a tutti, sentiamo lunedì, ci vediamo questa sera alla spiaggetta per chi verrà a venirci a trovare. Ricordatevi sempre che una pietra che rota non raccoglie mesugo. Grazie, ciao, grazie, alò, grazie, Vasquez. Salutate, ignorate. Panico, andate tutti a vedere Panico al villaggio perché c'è Cheval, c'è l'eroe Cheval.